I due avventurieri e il talismano da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, settembre 2007, Roma. Alcide, il forte eroe, Alcide che rivali non ebbe mai fra gli uomini e men fra gli animali, mostrò coi suoi sudori che dell'onor la strada non è sparsa di fiori. E lo provò quell'arabo che con un talismano iva a cercar fortuna in un paese strano, un dì che in compagnia d'una camerata giunse a un capo d'una via. Sopra un pilastro scritto dicevavi un cartello: «Signor avventuriere, se passi oltre il ruscello potrai tosto vedere ciò che non vide mai nessun avventuriere. Un elefante in sasso scolpito giace al suolo. Piglialo in braccio e portalo con un impeto solo in vetta di quel monte, che par sfidare il cielo con la superba fronte». Dei due avventurieri, colui che era più saggio di scendere in l'acqua non si sentì scoraggio. Gli parve stravagante questo passare e prendere in collo un elefante. L'acqua era fonda e rapida, e quando anche arrivassi a stringere l'elefante, dicea, per pochi passi portarlo poi d'un fiato in cima di quel monte mi par fiato sprecato. Se grosso è l'elefante e non di carta o uguale si mette sui bastoni, non c'è nessun mortale capace di far tanto, e poi della fatica quale il costrutto e il vanto? Scommetto che qui sotto c'è di parola un gioco o qualche tristo intrigo, e me ne fido poco. Se curioso sei, ti lascio l'elefante e vo pei fatti miei. Questi partì con animo più forte e men prudente. L'altro nell'acqua slanciasi e passa oltre il torrente. Combatte, vince, va, laddove l'elefante, come era scritto, sta. Se piglia sulle braccia, al monte ecco si avvia. Cammina ove una valle dal culmine si apria. Un grido alto gettò la bestia e una città di subito spuntò. Ed ecco armato accorre il popolo, risuona la valle. Egli non fugge, s'avanza, non perdona, e a vendere si appresta a chi la vuol comprare assai cara la testa. Pensate ora se attonito restasse, quando intese che scelto era dal popolo monarca del paese. Per quanto sia mestiere da cane, pur si arrese il forte alle preghiere. Non finse egli, siccome si narra di Frassisto, che, nominato papa, ahi, disse, affare tristo essere papa e re, ma lieto il certo cinse che il popolo gli diè. Una fortuna cieca, cieco ardimento vuole, ed è più saggio spesso non far troppe parole, non indugiar, ma in faccia guardare ed affrontare il mal che ci minaccia. Fine della favola, I due avventurieri e il talismano. Questa registrazione è di dominio pubblico.